E allora una corrispondenza per chiudere l'edizione del giornale radio delle 13, corrispondenza che viene dalla nostra città. Dopo la manifestazione contro gli Stati Generali, torna in piazza la sigla Roma Bene Comune. Siamo in collegamento telefonico con una compagna. Ciao. Ciao, ciao a tutti e tutti. Allora, questa mattina, insomma, voi siete scesi in strada, dici tu per fare cosa e soprattutto dove? Allora, sì, come dicevi tu, dopo le manifestazioni intorno alle contestazioni agli Stati Generali di Alemanno, abbiamo deciso di fare una serie di iniziative. Questa sarà solo la prima delle tante che vorremmo organizzare in risposta al silenzio seguito proprio all'incontro che abbiamo avuto come Roma Bene Comune durante gli Stati Generali con Alemanno. Infatti in quell'incontro era stato fissati una serie di tavoli con assessorati specifici in base alle vertenze presentate, quindi dal Movimento per l'Acqua fino a vertenze lavorative come quelle dei canili, dell'ATAC, ma anche come movimenti per il diritto all'abitare, e non abbiamo più ricevuto nessun appuntamento dagli assessorati, quindi abbiamo deciso di tornare in piazza e oggi stiamo occupando simbolicamente l'ostello della gioventù. Praticamente è un luogo lasciato vuoto da tempo ed era l'unico spazio accessibile alle giovani generazioni europee, del mondo insomma, che si avvicinavano alla città di Roma. E come spesso accade, invece di aumentare gli spazi accessibili che rispondano un po' anche alle tasche dei precari e delle precarie, si decide di abbandonare e lasciare vuoti spazi come questo. E visto che anche sapevamo che si stanno preparando degli accordi speculativi rispetto a questo spazio, abbiamo deciso da una parte di denunciare l'abbandono di uno spazio pubblico, l'ennesimo spazio pubblico abbandonato, invece di essere riempito rispondendo alle richieste e alle esigenze di chi vive questa città, è di nuovo abbandonato, e dall'altro rispondendo anche al silenzio della richiesta di un tavolo specifico con l'assessorato alle politiche giovanili, che invece insomma è stato disatteso. E dall'altra parte, di fronte all'ostello della gioventù, sempre qui in zona olimpico, vi stiamo vicino allo stadio olimpico, abbiamo calato due striscioni molto grandi dal Ponte della Musica. Si tratta di una costruzione, come spesso accade, inutile, che Alemanno, insieme ai grossi costruttori di Roma, ha deciso appunto di costruire un ponte pedonale che unisce i due lati del Tevere, chiamato appunto Ponte della Musica, e che sarà, insomma, aumenterà il cemento di questa città senza invece di rispondere ai servizi che, come dicevo prima, servono alla cittadinanza romana. E quindi, con la sigla insomma crisi, precarietà, cemento, è ora di cambiare musica. È quello che il pacchetto Roma Bene Comune vuole continuare a fare in questi giorni nella città di Roma. Benissimo, insomma, da una parte strutture lasciate al degrado, dall'altra invece sono tanti i soldi e le risorse che vengono stanziate per progetti per gli amici degli amici, vedi housing sociale o tanti altri, insomma. Per il momento queste sono le risposte della giunta Alemanno. Senti, ma dopo gli Stati Generali, io ricordo insomma che poi quel giorno c'era un incontro pomeridiano fissato, ma poi insomma l'accordo qual era e in che modo è stato disatteso? No, nel senso che l'incontro era stato insomma abbastanza positivo, almeno nei termini dell'apertura da parte dell'amministrazione di organizzare, di prendersi la responsabilità come sindaco e gabinetto del sindaco di organizzare una serie di tavoli specifici con gli assessori per rispondere chiaramente alle richieste dei movimenti. E per la prima volta, appunto, come Roma Bene Comune, non come singole vertenze, ma a seconda dell'assessorato di riferimento, si univano vari pezzi del del pacchetto Rom Bene Comune in delle richieste specifiche, e ce n'erano state insomma 5-6 incontri dovevano essere calendarizzati nella settimana successiva. Appunto, siamo dal 23 al 9 marzo, non è stato fissato nessun appuntamento, e quindi abbiamo deciso appunto di ritornare in piazza per chiedere e sollecitare questa presa di responsabilità che, come sempre, anche questa volta Alemanno ha parlato come ha fatto durante tutta la campagna elettorale, e poi nella pratica ha disatteso invece le richieste dei movimenti. Va benissimo, rimarrete ancora a lungo lì? Rimaniamo ancora un po', penso che comunque durante il pomeriggio di spostarci, ecco, di lasciare lo spazio. Anche qui naturalmente è arrivato sia Volanti che Digos da questa mattina molto preoccupati dell'esito dell'iniziativa, e continueremo un pochino a stare qui e poi ci sposteremo. D'accordo, allora okay. Ciao e grazie. Grazie a voi, ciao.